Ad alta voce, Chiara Guidi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. 3 mesi dopo, Aureliano II e Fernanda portarono Meme in collegio e tornarono con un clavicembalo che occupò il posto della pianola. Fu in quell'epoca che Amaranta cominciò a tessere il proprio sudario. La febbre del banano si era placata. Gli antichi abitanti di Macondo, che si trovavano messi da parte dai forestieri, si afferravano penosamente alle loro precarie risorse di un tempo, ma erano riconfortati in ogni modo dall'impressione di essere sopravvissuti a un naufragio. Nella casa continuarono gli inviti a pranzo e a cena, e in realtà non si ristabilirono le antiche abitudini finché non se ne andò, qualche anno dopo, la compagnia bananiera. Tuttavia, ci furono cambiamenti radicali nel tradizionale senso di ospitalità, perché allora era Fernanda a imporre le sue leggi. Con Ursula, relegata nelle tenebre, e con Amaranta assorta nella composizione del sudario, l'antica apprendista regina ebbe mano libera per selezionare i commensali e imporre loro le rigide norme che le avevano inculcato i suoi genitori. La sua severità fece della casa un ridotto di usanze del passato, in un villaggio sconvolto dalla volgarità con la quale i forestieri scialacquavano le loro facili fortune. Per lei, senza tante storie, la gente per bene era quella che non aveva niente a che vedere con la compagnia bananiera. Perfino José Arcadio II, suo cognato, fu vittima del suo zelo discriminatorio perché nell'entusiasmo della prima ora tornò a vendere al maggior offerente i suoi stupendi galli da combattimento e si impiegò come caposquadra nella compagnia bananiera. «Che non torni a mettere piede in questa casa», disse Fernanda, «finché avrà la rogna dei forestieri». Fu tale il rigore imposto in casa che Aureliano II si sentì definitivamente più a suo agio da Petracotes. Dapprima, col pretesto di alleviare il peso a sua moglie, trasferì le baldorie, poi col pretesto che gli animali stavano perdendo fecondità, trasferì le stalle e le scuderie. E per ultimo, col pretesto che nella casa della concubina faceva meno caldo, trasferì il piccolo studio dove badava i suoi affari. Quando Fernanda si rese conto di essere una vedova, alla quale non era ancora morto il marito, era ormai troppo tardi perché le cose tornassero al loro stato anteriore. Aureliano II mangiava a malapena in casa e le uniche apparenze che continuava a mantenere, come quella di dormire con sua moglie, non servivano a convincere nessuno. Una notte, per sbadataggine, rimase nel letto di Petracotes fino al mattino. Fernanda, al contrario di quello che lui si aspettava, non gli fece il benché minimo rimprovero, né esalò il benché lieve sospiro di risentimento, ma in quello stesso giorno gli mandò nella casa della concubina i suoi 2 bauli di roba. Li mandò in pieno giorno e con l'incarico di lasciarli in mezzo alla strada in modo che tutti li vedessero. convinta che il marito traviato non avrebbe potuto sopportare la vergogna e sarebbe tornato all'ovile a testa bassa. Ma quel gesto eroico fu appena una prova ulteriore di quanto poco Fernanda conoscesse non soltanto il carattere di suo marito, ma anche l'indole di una comunità che non aveva nulla a che vedere con quella dei suoi genitori, perché tutti coloro che videro passare i bauli si dissero che finalmente quello era il culmine naturale di una storia le cui intimità non ignorava nessuno. E Aureliano II festeggiò la libertà regalata con una baldoria di 3 giorni. Per maggior svantaggio della moglie, mentre lei iniziava una brutta maturità coi suoi lugubri abbigliamenti talari, i suoi medaglioni anacronistici e il suo orgoglio fuori luogo, la concubina sembrava essere sbocciata a una seconda giovinezza, infagottata in vistosi abiti di seta naturale e con gli occhi intigriti dal fuoco della rivendicazione. Aureliano II tornò ad abbandonarsi a lei con l'impeto dell'adolescenza, come prima, quando Petra Cotes non lo amava perché era lui, ma perché lo scambiava col suo fratello gemello e, andando a letto con ambedue, al tempo stesso pensava che Dio le aveva dato la fortuna di avere un uomo che faceva l'amore come se fossero due. Era così incalzante la passione restaurata che in più di un'occasione nel mettersi a tavola si erano guardati negli occhi e, senza dirsi nulla, avevano coperto i piatti e se ne erano andati a morire di fame e di amore in camera da letto. Ispirato dalle cose che aveva visto nelle sue furtive visite alle matrone francesi, Aureliano II comprò a Petra Cotes un letto con baldacchino arcivescovile e mise tende di velluto alle finestre e coprì il soffitto e le pareti della stanza con grandi specchi di cristallo di rocca. Lo si vide allora più festaiolo e scialacquatore che mai. Col treno, che arrivava ogni giorno alle 11, riceveva casse e casse di champagne e di brandy. Tornando dalla stazione, trascinava con sé alla sarabanda improvvisata quanti esseri umani trovava sul suo cammino, nativi o forestieri, conoscenti o da conoscere, senza alcuna distinzione di classe. Perfino lo scivoloso signor Brown, che praticava soltanto in lingua straniera, si lasciò sedurre dai cenni tentatori che gli faceva Aureliano II e parecchie volte si ubriacò a morte in casa di Petra Cotes e arrivò al punto di far ballare persino ai feroci cani tedeschi che lo accompagnavano dappertutto le canzoni texane che lui stesso masticava alla meno peggio al ritmo della fisarmonica. «Scostatevi, vacche!» gridava Aureliano II nel parossismo della festa. «Scostatevi, che la vita è breve!» Non ebbe mai migliore cera, né lo amarono di più, né furono più smisurate le partoritanze dei suoi animali. si sacrificavano tanti vitelli, tanti maiali, tante galline nelle interminabili baldorie, che la terra del patio divenne nera e fangosa da tanto sangue. Quello era un eterno gettar via ossi e interiora, un mondezzaio di avanzi, un continuo accendere candelotti di dinamite perché gli avvoltoi non beccassero gli occhi agli invitati. Aureliano II si fece grasso, violaceo, intartarughito a causa di un appetito appena paragonabile a quello di José Arcadio quando era tornato dal giro del mondo. Il prestigio della sua sfrenata voracità, della sua immensa capacità di scialo, della sua ospitalità senza precedenti, superò i confini della palude e richiamò i ghiottoni più qualificati della costa. Da ogni dove arrivavano ingurgitatori favolosi per prendere parte agli irrazionali tornei di capacità e di resistenza che si organizzavano nella casa di Petra Cotes. Aureliano II fu il mangiatore invitto fino al sabato disgraziato in cui comparve Camilla Sagastume, una femmina totemica nota nell'intero paese col nome di la elefantessa. Il duello si prolungò fino allo spuntare del giorno del martedì. Nelle prime 24 ore, dopo aver liquidato un vitello con contorno di tuberi e banane cotte e inoltre una cassa e mezzo di champagne, Aureliano II era sicuro di vincere. Si considerava più entusiasta, più vitale della imperturbabile avversaria che sfoggiava uno stile evidentemente più professionale ma anche meno emozionante per l'eterogeneo pubblico che traboccò nella casa. Mentre Aureliano II mangiava a quattro palmenti, smanioso di vincere, l'elefantessa sezionava la carne con l'arte di un chirurgo e la mangiava senza fretta e perfino con un certo piacere. Era gigantesca e massiccia, ma contro la corpulenza colossale prevaleva la dolcezza della femminilità e aveva un viso così grazioso, delle mani così fini e ben curate, e un fascino personale così irresistibile, che quando Aureliano II la vide entrare in casa, commentò a bassa voce che avrebbe preferito non fare il torneo a tavola, bensì a letto. Più tardi, quando la vide consumare la culatta del vitello senza violare una sola regola della migliore urbanità, commentò seriamente che quella delicata, affascinante e insaziabile proboscidata era in un certo modo la donna ideale. Non si sbagliava. La fama di rompi ossa che aveva preceduto l'elefantessa mancava di fondamento. Non era trituratrice di buoi né donna barbuta di un circo greco, come si diceva, ma direttrice di un'accademia di canto. Aveva imparato a mangiare quando era già una rispettabile madre di famiglia, cercando un metodo per far sì che i suoi figli si alimentassero meglio e non mediante stimoli artificiali dell'appetito, bensì mediante l'assoluta tranquillità dello spirito. La sua teoria, dimostrata nella pratica, si basava sul principio che una persona che avesse perfettamente sistemato tutte le pendenze della sua coscienza poteva mangiare senza sosta finché non fosse stata vinta dalla stanchezza. di modo che fu per ragioni morali e non per interesse sportivo che tralasciò le cure dell'accademia e del focolare domestico per competere con un uomo la cui fama di grande mangiatore senza principi aveva fatto il giro del paese. Fin dalla prima volta in cui lo vide, si rese conto che Aureliano II sarebbe stato vinto non dallo stomaco, ma dal carattere. Alla fine della prima notte, mentre l'elefantessa continuava impavida, Aureliano II si stava esaurendo dal gran parlare e ridere. Dormirono 4 ore. Quando si svegliarono, ognuno di loro beve il succo di 50 arance, 8 litri di caffè e 30 uova crude. All'inizio del secondo giorno, dopo molte ore insonni e dopo aver liquidato 2 maiali, un casco di banane e 4 casse di champagne, l'elefantessa sospettò che Aureliano II, senza saperlo, doveva aver scoperto il metodo da lei creato, ma per la strada assurda della irresponsabilità totale. Era quindi più pericoloso di quanto lei aveva pensato. Tuttavia, quando Petra Cotes portò in tavola 2 tacchini arrosto, Aureliano II era a un passo dalla congestione. «Se non può, non mangi più», disse l'elefantessa. «Restiamo pari». Lo disse col cuore, comprendendo che il rimorso di star propiziando la morte dell'avversario le avrebbe impedito di mangiare anche un solo boccone in più. Ma Aureliano II lo interpretò come una nuova sfida e si rimpinzò di tacchino al di là della sua incredibile capacità. Perse conoscenza, cadde bocconi nel piatto degli ossi, vomitando schiumate di carne dalla bocca e soffocando in rantoli di agonia. Sentì, in mezzo alle tenebre, che lo gettavano dal più alto di una torre verso un precipizio senza fondo. E in un ultimo sprazzo di lucidità si rese conto che alla fine di quella interminabile caduta lo stava aspettando la morte. «Portatemi da Fernanda», riuscì a dire. Gli amici che lo deposero in casa credettero che avesse mantenuto la promessa fatta alla moglie di non morire nel letto della concubina. Petra Cotes aveva incerato gli stivaletti di vernice che lui voleva portare con sé nella bara e stava già cercando qualcuno che glieli recapitasse quando vennero a dirle che Aureliano II era fuori pericolo. Si ristabilì, in effetti, in meno di una settimana e 15 giorni dopo stava celebrando con una baldoria senza precedenti l'avvenimento della sopravvivenza. Continuò a vivere in casa di Petra Cotes, ma andava a trovare Fernanda tutti i giorni e certe volte si fermava a mangiare in famiglia, come se il destino avesse invertito la situazione e lo avesse trasformato in marito dalla concubina e amante dalla moglie. Fu un sollievo per Fernando. Nel tedio dell'abbandono, le sue uniche distrazioni erano gli esercizi di clavicembalo nell'ora della siesta e le lettere dei suoi figli. Nelle dettagliate missive che spediva ogni 15 giorni non c'era una sola linea di verità. Nascondeva loro le sue pene. Celava la tristezza di una casa che, nonostante la luce sulle begonie, nonostante l'afa delle 2 del pomeriggio, nonostante le frequenti raffiche di festa che arrivavano dalla strada, somigliava sempre di più alla magione coloniale dei suoi padri. Fernanda vagava sola tra tre fantasmi vivi e il fantasma morto di José Arcadio Buendía, che a volte veniva a sedersi con un'applicazione inquisitiva nella penombra del salotto, mentre lei suonava il clavicembalo. Il colonnello Aureliano Buendía era un'ombra. Dall'ultima volta che era uscito in strada per proporre una guerra senza avvenire al colonnello Gerineldo Márquez, lasciava il laboratorio soltanto per andare a orinare sotto il castagno. Non riceveva altre visite che quelle del barbiere ogni 3 settimane. Si alimentava di qualsiasi cosa gli portava Ursula una volta al giorno. E benché continuasse a fabbricare pesciolini d'oro con la stessa passione di un tempo, smise di venderli quando venne a sapere che la gente non li comprava come gioielli, ma come reliquie storiche. Aveva fatto nel patio un falò delle bambole di Remedios, che decoravano la stanza da letto fin dal giorno del suo matrimonio. La vigile Ursula si accorse di quello che stava facendo suo figlio, ma non poté impedirlo. «Hai un cuore di pietra», gli disse. «Questa non è una questione di cuore», disse lui. «La stanza si sta riempendo di tarme». Amaranta tesseva il suo sudario. Fernanda non capiva perché mai di tanto in tanto scriveva lettere occasionali a Meme e le mandava perfino dei regali, e invece non voleva sentire nemmeno parlare di José Arcadio. «Morirete senza sapere perché», rispose Amaranta quando lei glielo chiese tramite Ursula. E quella risposta seminò nel suo cuore un enigma che non riuscì mai a chiarire. Alta, eretta, altera, sempre vestita con abbondanti sottane di pizzo e con un'aria di distinzione che resisteva agli anni e ai cattivi ricordi, Amaranta sembrava portare sulla fronte la croce di cenere della verginità. In realtà la portava sulla mano, nella benda nera, che non si toglieva mai, nemmeno quando dormiva, e che lei stessa lavava e stirava. La vita le si esauriva nel ricamo del sudario. Si sarebbe detto che ricamava durante il giorno per disfare il lavoro di notte, e non con la speranza di sconfiggere in quel modo la solitudine, ma tutto al contrario, per sostenerla. La maggiore preoccupazione di Fernanda nei suoi anni di abbandono era che Meme venisse a passare le prime vacanze in casa e non vi trovasse Aureliano II. La congestione mise fine a quel timore. Quando Meme tornò, i suoi genitori si erano messi d'accordo non soltanto per far sì che la bambina continuasse a credere Aureliano II un marito domestico, ma anche perché non si notasse la tristezza della casa. Tutti gli anni, per 2 mesi, Aureliano II recitava la sua parte di marito esemplare e organizzava feste con gelati e biscottini che la lieta e vivace studentessa rallegrava col clavicembalo. Era evidente, fin da allora, che aveva ereditato assai poco del carattere della madre. Sembrava piuttosto una seconda versione di Amaranta, quando questa non conosceva l'amarezza e andava mettendo sossopra la casa coi suoi passi di ballo a 12, a 14 anni, prima che la passione segreta per Pietro Crespi facesse definitivamente cambiare strada al suo cuore. al contrario di Amaranta, al contrario di tutti, Meme non dimostrava ancora il fato solitario della famiglia e sembrava del tutto d'accordo col mondo. Anche quando si chiudeva nel salotto alle 2 del pomeriggio a esercitarsi sul clavicembalo, con una disciplina inflessibile. Era evidente che le piaceva la casa, che trascorreva tutto l'anno a sognare lo scompiglio di adolescenti che provocava il suo arrivo e che non era molto lontana dalla vocazione festaiola e dalle esuberanze ospitaliere di suo padre. Il primo segno di quella eredità calamitosa si rivelò nella terza vacanza, quando Meme comparve in casa con 4 monache e 68 compagne di classe, che aveva invitato a passare una settimana in famiglia di propria iniziativa e senza alcun preavviso. Che disgrazia, si lamentò Fernanda. È una creatura incivile, proprio come suo padre. Fu necessario chiedere letti a Mac e ai vicini, stabilire 9 turni a tavola, fissare orari per il bagno e farsi prestare 40 sgabelli perché le bambine in uniforme azzurra e stivaletti da uomo non se ne andassero tutto il giorno a gironzolare di qui e di là. L'invito fu un disastro perché le rumorose collegiali avevano appena finito di far colazione che già ricominciavano i turni per il pranzo e poi per la cena, e in tutta la settimana riuscirono solo a fare una passeggiata nelle piantagioni. Verso sera le suore erano sfinite, incapaci di muoversi, di impartire altri ordini, e la mandria di adolescenti infaticabili era ancora nel patio a cantare scipiti inni scolastici. Un giorno furono sul punto di travolgere Ursula, che si ostinava a essere utile proprio dove maggiormente intralciava. Un altro giorno le suore suscitarono un pandemonio perché il colonnello Aureliano Buendia era andato a orinare sotto il castagno senza preoccuparsi delle collegiali che si trovavano nel patio. Amaranta fu sul punto di seminare il panico perché una delle suore entrò nella cucina mentre lei stava salando la minestra e l'unica cosa che le venne in mente fu di chiedere cosa fossero quelle manciate di polvere bianca. Arsenico, disse Amaranta.